passava tanta gente attraverso la città. Mi guardo per capire come potrà finire. Interpreto quell'uomo che ancora sa stupire, che guarda e tranquillo se ne va. Io porto le mie cicatrici come medaglie appese al collo. Le ostento indifferente, ma se vuoi te ne parlo. Ciò che voglio sembrare importante per essere più coerente, a volte serve mentire. Mi fiammo per l'effimero, mi illumino d'immenso. Mi piace ciò che dico, ma è strano ciò che penso. Mi calo dentro un mondo fatto tutto da me, così sensibile, sensibile all'use. Fiammo per l'effimero, illumino d'immenso. La vita è sai più bella con spacco e decolte, per questo sono sensibile allo sé. Non voglio più imparare e non ho niente da insegnare. In quanti bei giardini ho sogno di passeggiare, invece mi accontento di guardare paesaggi incorniciati da un treno pendolare. Mi fiammo per l'effimero, mi illumino d'immenso. Mi piace ciò che dico, ma è strano ciò che penso. Mi calo dentro un mondo fatto tutto da me, così sensibile, sensibile all'ose. Mi fiammo per l'effimero, illumino d'immenso. La vita sei più bella con spacco e decolte, per questo son sensibile all'ose. Per questo son così sensibile all'ose. Per questo io sono sensibile all'ose.